Storiacce di Raffaella Calandra. Un anno dopo c'è ancora proprio il fango nell'area industriale di Benevento. Ci sono ancora ben evidenti i segni di quell'alluvione che travolse stabilimenti delle imprese, piegò ettari ed ettari di viti e diede un colpo fortissimo ad un'economia già assai precaria. Ci furono due morti nel Sannio per le piogge del 15 ottobre 2015 che provocarono frane, smottamenti e l'esondazione del fiume Calore, e un anno dopo i segni del disastro sono ancora lì, perfettamente riconoscibili, nonostante lo sforzo di tanti e la fatica soprattutto dei piccoli imprenditori. Quell'alluvione, 12 mesi dopo, pesa ancora come un macigno sull'intera zona, nel silenzio e nella disattenzione collettiva. Colpa di una sottovalutazione generale che ha trasformato questa davvero in un'alluvione di serie B? Da cui parte questa puntata di Storiacce. Terra di mezzo, terra di magia, che le passate storie croci via. Terra, ad oda lontano arriva profumo del grecale. Sono finiti là, guardate là. Ma sono, non se ne importano. Fortuna che noi siamo abituati a lavorare e a conservare qualcosa di soldi. Quella è la fortuna nostra. Che mo' va a capire i soldi che ci ho fatto una vita, i sacrifici e ricostruisci la casa. Stiamo con la pancia a terra e con la faccia nel fango. C'è più di questo, c'è solamente la morte. Parecchie persone dice, se non ci aiutano è meglio morire, perché gli manca dove attingere per sopravvivere. Questo ci dicevano un anno fa, in mezzo ad ettari di terreni trasformati in campi di battaglia, dove l'acqua del fiume da una parte e le pietre della montagna dall'altra avevano sfondato case e distrutto anni di lavoro. Un anno dopo, il ritorno in questi comuni è un incontro ravvicinato con gli sforzi di centinaia di coltivatori e la conferma della distanza di Roma. Tutto è avvenuto proprio come il signor Orazio Colangelo già prevedeva davanti alla voragine aperta nella sua casa di Paupisi. È successo che lui, come gli altri, abbia attinto ai risparmi di una vita, si sia rimboccato le maniche e abbia rimesso in piedi quelle viti che ancora non restituiscono le uve per il pregiato aglianico o la falanghina. Avevano la faccia nel fango, come mi dicevano, ma un anno dopo quell'aiuto economico o non c'è stato affatto o è stato assai esiguo e parziale, tanto che nell'area industriale di Benevento sono poche le aziende che hanno riaperto, e quelle che lo hanno fatto, come il celebre pastificio Rum o la Grisemi Menicozzi, hanno ora una produzione assai ridotta, con una minaccia costante sul capo, l'incubo che l'acqua possa tornare, perché i fiumi sono nella stessa situazione di allora e le denunce restano inascoltate, racconta Angelo Minicozzi. Gli aiuti di risarcimento di danni stanno completamente a zero. L'azienda la stiamo cercando di portare fuori con le nostre forze lavorative, diciamo come privati. Siamo in una zona depressa completamente, perché il nostro stabilimento l'abbiamo pulito, l'abbiamo sistemato, diciamo una parte, il 50% dello stabilimento già sta in produzione, ma fuori dello stabilimento è una depressione totale, non stanno tolto né fango né sporchizia, mondizia, ci sta tutto di più. Mi sembra che noi non stiamo in Italia oppure Benevento, ma siamo al terzo mondo. Cioè lei dice un anno dopo l'alluvione, i segni di quell'alluvione sono ancora lì? Davanti al cancello della sua azienda che cosa vede in questo momento? Vedo velocemente proprio gli alberi, no, però ci sta un mucchio di fango, fognature che non funzionano, manutenzione zero, zero completamente. È come se fosse passato qualche giorno, non un anno intero. Ancora peggio, perché logicamente è cresciuto erbaccio e le aziende intorno a me sono tutte quante chiuse. L'unica azienda che sta in cancello aperto facendo debiti bancari, diciamo, logicamente. Fortunatamente abbiamo avuto le banche che ci hanno sopportato per la partenza, perché sennò andava in difficoltà tutta la filiera cereagricola campana. Siamo noi su quella zona là. L'altra parte è tutto, diciamo, tutto depresso totalmente, aziende chiuse, disastrate come era un anno fa. Quindi significa che nella zona industriale, in questa parte dell'area industriale di Benevento, quell'alluvione ha praticamente fatto chiudere molte aziende? Sì, sono completamente chiuse. L'unica azienda che stiamo cercando di riprendere siamo noi e il pastificio Rum, che sta lavorando pure loro al 50%. La Metalplex, le aziende proprio nella zona proprio nostra dove stiamo noi, come attraverso il ponte, non ci sta nessuno, tutte quante chiuse le aziende. Per totale ne siamo 5, 4 aziende chiuse. Io credo che più o meno 20 aziende alluvionate ne stanno aperte, se no 6, 5, 6. Ma questo secondo lei anche perché non ci sono stati aiuti? Non ci sono stati aiuti per la ripartenza delle aziende, zero. Nemmeno la domanda di risarcimento danno. Non parliamo aiuti, parliamo di domande di risarcimento danno. E chiaramente anche se dovesse essere avviato adesso, ad un anno dopo, questi sono tempi che non sono compatibili con i tempi di un'azienda. Beh, assolutamente le aziende stanno paralizzate, stanno completamente paralizzate. Come sono stati questi mesi per voi? Vabbè, non ne parliamo perché logicamente a noi parliamo di un'azienda familiare, ci abbiamo investito l'anima per dire una cosa, è stata una depressione totale. Allora, mi stavano annullando i contratti con le multinazionali, le nostre ditte madre, tipo Basilla, Singenta, mi stavano annullando i contratti, ho dovuto decidere dopo 3 o 4 mesi dell'alluvione, ho dovuto fare un prestito, un mutuo bancario, a garanzia personale, non una garanzia più aziendale perché l'azienda è completamente distrutta, e siamo ripresi a lavorare. Abbiamo esposto denunzie, dobbiamo consegnare le carte alla magistratura. La messa a sicurezza non ci sta. Si può ripetere tranquillamente, di cui noi dopo quell'alluvione abbiamo subito con le piogge altri allagamenti. Abbiamo fatto citazione all'ASI, al Comune di Benevento, alla provincia, alla regione. Zero, totalmente risposto zero. Cioè non c'è stata nessun tipo di manutenzione. E la cosa più che noi ci fa paura in quella zona, che ormai non ci sentiamo più sicuri, perché come messa a sicurezza, lavori di messa a sicurezza completamente zero. Ci sta la palpitazione di cure, perché logicamente poi si può ripetere, si è ripetuto dopo 4 giorni che noi abbiamo avuto la prima inondazione il 15, la seconda l'abbiamo avuto il 19. Quando viene un temporale siamo preoccupati perché logicamente si può ripetere. Terra che abbraccia, sospira e brezza di maestrale. Terra di mezzo, terra di memoria antica. Per le stesse ragioni ammette che forse bisogna affidarsi alla buona sorte o a qualche stregone. Lo stesso Clemente Mastella, sindaco di Benevento, una città dove oggi è tuttora difficile entrare vista la chiusura di un ponte. L'economia sannita, che ha avuto una piccola ripresa nel 2014, in realtà nel 2015 c'è stata una forma di depressione incredibile. Ad oggi la Rummo e altre attività consolidate, storicamente consolidate nella nostra realtà cittadina, sono al punto di partenza, cioè non hanno avuto assolutamente nulla. C'è una legislazione molto confusa per quanto riguarda le procedure, una forma di scarsa presenza delle istituzioni che hanno sottovalutato il fenomeno dell'alluvione a Benevento. Questo è un tema centrale dell'alluvione che l'anno scorso colpì il Sannio. Per quanto riguarda la città proprio, un anno dopo uno dei ponti di accesso alla città è tuttora chiuso. Il ponte, quello di San Nicola, cosiddetto di San Nicola, dovremmo aprirlo tra Natale, insomma inizio del prossimo anno. Nel finanziamento non c'è attività per quanto riguarda possibile, per ciò riguarda le infrastrutture. Le cicatrici di quell'alluvione sono ancora abbastanza visibili nella città. Sono ferite, neppure cicatrizzate fino in fondo. Il danno censito all'inizio in tutta Benevento e provincia era di 1.234 milioni, poi successivamente si è detto 758 milioni soltanto di patrimonio pubblico, ponti, strade, edifici, fognature, però su questo non si è fatto nulla né si ripartisce alcunché. Per far fronte agli interventi urgenti sono stanziati 39-38 milioni. Mi sembra di capire che le sofferenze maggiori ad un anno dall'alluvione sono per i mancati finanziamenti per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche e soprattutto nel mancato supporto alla piccola imprenditoria. Peraltro la cosa singolare è che non è stato neppure possibile accedere alla risorsa del Fondo Europeo di Solidarietà. Nell'area industriale, lei citava la Rummo, l'azienda di sicuro più nota, altre realtà hanno chiuso anche. Purtroppo e me rischiano i giorni di aprire, però quello che vedo è una forma di quasi come se fossero umiliati dagli eventi e umiliati dal punto di vista delle considerazioni burocratiche. Questa vicenda che si è verificata, insomma, ci ha distrutti completamente. Distrutti da quello che è successo, ma anche forse da una insufficiente vicinanza delle istituzioni centrali? Io mi sarei aspettato ad esempio che magari il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, altri potessero venire, sono venuti qualche ministro con un po' di forzatura, perché credo che abbiano sottovalutato il fenomeno. Cioè la portata, il rilievo del fenomeno in realtà non è stato considerato nella giusta dimensione. Per quanto riguarda invece adesso la messa in sicurezza dei fiumi soprattutto, cioè lo straripamento del fiume ha provocato... Non è stato fatto nulla. Cioè non è stato fatto nulla? No. Mi devo affidare insomma a qualche stregone, insomma nella migliore ipotesi possibile. Ogni anno, purtroppo, in Italia, quasi ciclicamente, da 50 anni, dall'alluvione di Firenze in poi, in qualche punto del paese, le piogge allagano tutto. I fiumi esondano e le frane fanno morte, ma la reazione del paese e delle istituzioni non è sempre la stessa dappertutto. Nel Sannio, l'anno scorso, è come se fosse mancata la commozione collettiva, che poi, diciamocelo, velocizza anche i percorsi burocratici e rende a volte più forte e veloce la risposta politica. Certo, per dirla in modo assai cinico, i morti furono solo due, per fortuna. Ma davvero quell'alluvione non è stata capita anche rispetto ai suoi danni economici, finendo con l'essere sottovalutata? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio, e tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30. C'è anche De Luca, è il nostro autore. Certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Una squadra fortissimi. Storiacce. Le viti ora sono in piedi e guidando lungo la provinciale telesina che attraversa il cuore del Sannio, i campi restituiscono il paesaggio di sempre ai piedi del Monte Taburno. Le viti sono state rimesse in piedi lungo gli argini del fiume Calore, ma prima che possano ridare uve alla fatica dei coltivatori dovrà passare ancora del tempo. Un anno dopo, bisogna dirlo, non c'è più quel paesaggio di distruzione che nell'ottobre 2015 dava immediatamente, tra i comuni di Paupisi, Ponte, Solopaca e fino a Benevento, il segno dell'alluvione subita. Due morti e danni molto forti all'economia di un'area già in difficoltà. Come abbiamo raccontato nella prima parte di Storiacce, è tornata nell'area industriale di Benevento. Ma proprio come le aziende, così furono colpite anche le coltivazioni di vino, una delle principali risorse di un'area già fortemente penalizzata, che se oggi si è rimessa in moto lo deve soprattutto a se stessa. Davanti alle bottiglie di Aglianico e Falanghina, questo ora ripete Libero Rillo, presidente del consorzio Tutela Vini del Sannio. Sicuramente è migliorata, ma questo grazie alla caparbietà e alla fermezza degli imprenditori agricoli che con le proprie forze e con le proprie risorse si sono messi a lavorare seriamente per riprendere quella che era la situazione e quindi rifare un po' tutti i vigneti. Quindi dal punto di vista agricolo la situazione è sicuramente migliorata, invece cosa che non è successa per quanto riguarda la parte pubblica, perché comunque ci sono ancora strade interrotte, ponti rotti e quindi alcuna parte della viabilità non ancora è stata ripristinata, e questo sicuramente è un danno per il territorio. I danni sono stati consistenti perché ci sono persone, famiglie, aziende che hanno perso tutto. E per quanto riguarda i privati ci sono state varie promesse, ma di fatto non è ancora arrivato nulla, e anche la misura PSR che si è aperta da poco e che può dare un aiuto concreto a queste imprese e non famiglie, comunque ha dei paletti molto restrittivi, per cui anche le stesse imprese che potranno accedere a questa forma di aiuto saranno poche alla fine. Furono coperte di fango le bottiglie di vino della cantina sociale di Solopaca e così furono vendute tutte in uno slancio di solidarietà che è rimasto uno dei pochi concreti aiuti ricevuti qui, perché negli stanziamenti avvenuti loro, come molti altri, non sono rientrati. E tutto questo non meraviglia affatto ora Carmine Coletta, che guida la cantina di Solopaca. A un anno dopo la cantina ha ripreso a pieno ritmo. La nostra prima preoccupazione è stata all'inizio, quindi di tutelare i posti di lavoro delle persone, la produzione, e ci siamo rimboccati le maniche. Non abbiamo aspettato chiaramente i tempi delle istituzioni, perché infatti a distanza di un anno noi non abbiamo avuto nessun tipo di risposta da parte delle istituzioni. La produzione è ovviamente integra. È la stessa degli anni scorsi oppure di meno? È un po' ridotta, ovviamente. Si è un po' ridotta perché ci sono molti vigneti che non si sono potuti reimpiantare, molti viticoltori non hanno potuto impiantare perché hanno avuto seri danni, e questo ci ha ridotto un po' la quantità di uva che è entrata in cantina, ma un 3%, 4-5 mila quintali in meno dovuti all'alluvione. Lei ha sottolineato da subito che tutto questo è stato possibile gravando sui vostri soci. Certo, sì. Cioè non avete avuto alcun tipo di sostegno? Assolutamente niente. Ma è stata fatta domanda? C'era possibilità? Certo, cioè... Allora si è presentata una domanda alla, subito alla comunità montana con la legge, credo, 602. Domanda non abbiamo saputo più niente. Poi si era aperta la possibilità dei bandi PSR, però sono per le aziende agricole, ma comunque se fosse stata per noi c'è una soglia d'ingresso, non possiamo rientrarci, perché per poter entrare devi aver dimostrato di aver avuto un danno pari al 30% della produzione standard. Noi abbiamo avuto circa 900.000 euro di danni, che però è inferiore al 30% della produzione che facciamo. Voi da subito avete capito che dovevate voi prendere in mano la situazione senza possibilità di aiuti, e questo va bene, però in qualche modo per realtà che insistono già in un territorio difficile, fatte soprattutto da un'imprenditoria medio piccola, tutto questo provoca che cosa? Grande rabbia? Sicuramente provoca rabbia, ma sì, certo, io non ci ho mai creduto nella politica, quella locale, ti possa dare una mano reale nei momenti di bisogno. Infatti, come si vede, non abbiamo avuto nulla. Pochi chilometri più avanti c'è Paupisi. Qui l'anno scorso il fiume allagò i campi e la montagna fece piovere pietre che sfondarono case e cancellarono strade. Oggi quasi tutte le famiglie evacuate sono tornate nelle loro case, ma il problema che causò i danni, ossia la mancata messa in sicurezza dei cosiddetti valloni, resta sempre lì. Proprio come gli argini dei fiumi di Benevento, per non parlare delle strade ancora chiuse, lamenta il sindaco Coletta. Per quanto riguarda i danni alle colture, chi ha fatto la domanda potrà accedere, sicuramente chi verrà accordato per il rinnovamento e il ripristino dei vigneti. Poi, per quanto riguarda le abitazioni private, pare che ci sia stato già uno stanziamento di una buona somma per il ristoro dei danni. Ora stiamo completando tutto quello che è l'iter legislativo, perché poi queste persone colpite possono accedere a questo ristoro. Un anno dopo qualcosa si è mosso, ma ancora di soldi non ne avete avuti. Diciamo che qualcosa si è mosso, ma sostanzialmente al di là dei soldi per le prime sistemazioni delle persone colpite dall'evento, sta aspettando che vengano ristorati anche questi ulteriori danni. E le famiglie che erano state evacuate sono ritornate tutte nelle loro case? Popolazione si è data da fare, si è ricostruita casa, tutti quanti sono ritornati nelle proprie abitazioni, fatto salvo, voglio dire, uno o due famiglie che non è il caso che rientrino. Servirebbero ancora parecchi, quantomeno per ripristinare e per ridare, voglio dire, un minimo di vivibilità a quelle che sono le arterie stradali, fermo restando che noi abbiamo presentato dei progetti, ma per quanto riguarda la messa in sicurezza dei valloni che danno in testa il nostro paese, non abbiamo ancora percepito che è un centesimo. Quando di nuovo in autunno ci sono stati già giorni di piogge intense, come si vive a Paupisi ai piedi? Si vive la paura che possa ripetersi ciò che è accaduto quel maledetto la maledetta notte. Questa è la realtà. Sole, sole che stai eterno fuori, yarde, yarde, mannaci splendore. Un quadro dunque, come avete sentito, effettivamente assai complesso e con danni assai forti. Ma la risposta vi è sembrata adeguata sia in termini economici che di presenze istituzionali? Una domanda che forse se ne porta dietro un'altra. Quanto la copertura mediatica di certi eventi, detta anche quella politica? A Benevento e provincia non c'era l'anno scorso il circo mediatico, per dirla con un'espressione cara alla trasmissione televisiva Gazebo, che invece l'anno scorso, come storiacce, andò in mezzo al fango del Sannio. E andammo perché ci fu segnalato dal posto, ci racconta ora il conduttore Diego Bianchi. Le vostre telecamere andarono fin giù nella provincia di Benevento, che in fondo non è così lontana da Roma, no? No, in teoria no, però è abbastanza così, uno ci si pensa poco. Noi andammo perché c'era stata segnalata questa cosa, si venne proprio segnalata da un ragazzo in particolare che seguiva la nostra trasmissione, e siamo andati lì, che come dicevi appunto non è un posto lontano, e ci siamo trovati di fronte a una situazione sì, sicuramente sottovalutata, una situazione drammatica che per puro caso si è provocato, mi pare, due o tre morti. Due morti ci furono, due morti. Okay. Io ve lo confesso, ne ho voluto parlare anche con lui per verificare se il mio sguardo di cronista, che aveva registrato una palese sottovalutazione dei danni di quell'alluvione, se il mio sguardo di cronista, dicevo stavolta, non fosse troppo coinvolto. Visto che nel Sannio io sono cresciuta, come sa chi mi segue, nella pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Di Benevento però talvolta molti fanno anche fatica a sapere dove sia con precisione, eppure è una città che ha segnato tra l'altro anche uno snodo cruciale della nostra storia più antica, come delle nostre leggende. Come ci racconta allora, come sempre a questo punto, Giorgio Giaranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Quando diciamo mefitico per indicare un odore pestilenziale, forse non lo sappiamo, ma stiamo facendo riferimento al mondo del mito. Mefite era infatti il nome di una divinità adorata dai popoli italici e in particolare dai Sanniti. Divinità delle acque, questa dea si specializza poi come il nume tutelare di luoghi in cui abbondano sorgenti sulfuree. Luoghi come la Valle d'Ansanto, in Irpinia, strano paesaggio dove Virgilio riteneva addirittura vi fosse un accesso al mondo degli inferi. Popolo fiero, come si sa, i Sanniti tennero testa ai Romani in più di una battaglia. Erano una stirpe di lupi. La stessa parola Irpini deriva dal termine sannita Hirpus, che significa appunto lupo, perché un lupo misterioso, raccontava il mito, avrebbe guidato gli Irpini nelle loro terre. I Sanniti furono sconfitti dai Romani, ma forse ancora oggi, magari sotterraneamente, sopravvive qualcosa dell'eredità di quel popolo che stava nell'ombelico d'Italia. In fondo, parafrasando Benedetto Croce, noi italiani non possiamo non dirci anche Sanniti. E voi cosa ne pensate? C'è stata davvero una sottovalutazione? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Se avete segnalazioni, scrivetemi a storiacce@radio24.it. Ciao a tutti, a presto!